badiani batena vae mbuyami Kitani matume ya manene na ine Matati ndipiswango ulema Maubadio ikakai ulema Matodu bando tube munami Mavengani na epise yoe na ine Meba mi votinge mbuyami Enge mandevo mao ite na ine Wabanga meba vo uninato na e mbuyamo na ine Nangwena e piseo olema Matume ya manane na ine Atati ndipiswango ulema Maumbandio ikakai ulema Maumbandio ikakai ulema